La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci alla Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è Radio 24 e noi come sempre vi diamo in mezz'ora tutti i consigli per spendere bene i vostri soldi in sala cinematografica durante il fine settimana e oltre, anche andando alla settimana prossima. È un momento in cui la qualità dei film che sta arrivando in sala sta salendo. Fra un po' magari non sarà così perché ci avvicineremo troppo al Natale, ma da qualche Natale a questa parte non è neanche più così vero. Ormai certo arrivano i prodotti natalizi che non sono più magari il cinepanettone, ma qualcosa che magari gli somiglia abbastanza, però arriva anche molta proposta alternativa e sicuramente sono particolarmente di pregio le proposte di questo fine settimana, da Woody Allen a Spike Lee e a Steven Soderbergh, con il quale cominciamo a raccontarvi i film di oggi. Dietro i candelabri, ascoltiamo la clip. Signore e signori, la star dello show, Mister Intrattenimento Liberace. Lui è il mio amico Scott Thorson. È la sua prima volta a Las Vegas. Lei è stato incredibile in scena. Sono fatto così. Io adoro far divertire la gente. Perché non viene a lavorare per me? Che faccio? Mi serve un compagno, una guardia del corpo, qualcuno con cui possa parlare. Di sì, Scott. Ascesa e caduta del rapporto fra una delle più grandi icone dello spettacolo americano, prima di Elvis, di Elton John, di Madonna, di Lady Gaga, c'era Vlaziu Valentino Liberace. Nome all'anagrafe assolutamente italiano, come il padre, mentre la madre era polacca, Liberace come lo chiamavano invece in America, uno che riempiva ogni locale in cui andava, l'uomo che aveva il cachet più alto del mondo in quel momento. Era un pianista che, come avete sentito, rieseguiva le grandi arie che andavano dalla musica classica, da Chopin a qualcosa magari di più jazzato, di più contemporaneo, ma era soprattutto un istrione da palcoscenico straordinario. Arrivava con la sua Rolls Royce bianca sul palcoscenico e si esibiva dietro i candelabri, dietro un candelabro sempre acceso davanti al suo pianoforte. Allora Steven Soderbergh cerca di andare a capire cosa c'è stato dietro il candelabro e soprattutto cosa c'è stato in questa storia d'amore fra lui e questo giovane affascinante che si chiamava Scott Thorson, che nonostante la differenza d'età e l'appartenenza a un mondo assolutamente lontano, seppe stargli a fianco in un amore molto inizialmente così non facile a prendere quota e poi però molto intenso, che durò per 5 anni. È con noi Boris Sollazzo, con il quale parliamo di questo film, un grande film di Steven Soderbergh. E Boris, una interpretazione straordinaria tanto di Matt Damon quanto di Michael Douglas nei panni appunto di Liberace. Sì, bravissimi tutti e due. Permettimi di dire che Michael Douglas è in una delle sue migliori interpretazioni, perché prende la sua icona di Macho e la mette al servizio di questo personaggio che ovviamente Macho non è, ma che ne tira fuori una parte che forse noi non abbiamo mai visto in questo senso. A me ha ricordato anche Liberace, o Liberaci come dir si voglia, un incrocio tra Renato Zero e Freddie Mercury. Mi rendo conto che è un po' estrema come visione, ma forse rende bene l'idea dell'istrionismo dell'artista, del personaggio, della simpatica follia che aveva quest'uomo e anche però della profonda sensibilità. Io devo dire che Steven Soderbergh, da quando ha annunciato il fatto che ogni film sarebbe stato l'ultimo, ha trovato una vena artistica, creativa e registica che forse aveva perso negli ultimi film, e si sta divertendo a percorrere tutti i generi, a usare il cinema come una tavolozza di colori, e in questo caso proprio di colori si tratta, perché ci sono tutti i colori delle performance di Liberace, e dall'altra parte anche però la malinconia di un amore vissuto in un periodo in cui quell'amore non doveva essere nascosto. E allora ricordiamo la sceneggiatura di Richard Lagravenese, un grandissimo sceneggiatore. Questo è un film che chiaramente si piazza in alto anche in previsione Oscar, e quindi staremo a vedere quante nomination riuscirà a portare a casa. Questo è Dietro i candelabri, un po' il film della settimana, se vogliamo, almeno per questo weekend. Noi a questo punto giochiamo con il nostro film misterioso. Due tracce, due frammenti, un film da indovinare per provare a vincere l'edizione in Blu-ray. È sempre stato al calduccio sotto il mio braccio. Mi ha tenuto compagnia durante questo lungo viaggio. Ah, vedete, sta facendo cotò all'imperatore. E allora, la Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta con il vostro indirizzo di posta per poter ricevere eventualmente l'edizione in Blu-ray di questo film. Più tardi vi daremo un'altra possibilità. Un altro che è diventato, è sempre stato in realtà, ma anche negli ultimi tempi non manca di esserlo, molto prolifico, è Woody Allen. Woody Allen che torna anche in questa stagione cinematografica con Blue Jasmine, il suo nuovo film. Sentiamo la clip. Mi conobbe a una festa e io persi la testa subito. Mi innamorai del nome Jasmine. Lo sa che non sono mai stata a San Francisco? Starò da mia sorella. Jasmine, oh, ma guardati! La tua casa è intima. Il volo è stato burrascoso, il cibo era orribile. Insomma, uno pensa che in prima classe... Io credevo che fossi al verde. Ah, più che al verde, sul serio, il governo si è preso tutto. Ti devo dire che stai benissimo. Ah, chi è la bugiarda ora? C'è qualcosa che vorresti e che non hai? Amore, è bellissimo. Quando tua sorella era carica di soldi non voleva avere niente a che fare con te. Adesso che è al verde, a un tratto si trasferisce da te. L'hai incasinata di brutto, no, solo al verde. Per carità. La discesa dalle stelle a quasi le stalle di una donna ormai non più giovanissima, Kate Blanchett in Blue Jasmine di Woody Allen, agiata all'inizio, in disgrazia e bisognosa dell'aiuto degli altri. In mezzo un grandissimo personaggio femminile per Woody Allen, Boris. Sì, assolutamente sì. È tornato il Woody Allen che si innamora delle sue protagoniste, che le sviscera, che le racconta in tutte le loro contraddizioni. Qui va detto che Blue Jasmine si poggia su una fantastica interpretazione di Kate Blanchett. Blue Jasmine è un film che mi ha messo in crisi, perché di sicuro Woody Allen ritrova l'ispirazione che sembrava aver perso negli ultimi anni, allo stesso tempo però non sembra ritrovare la felicità di racconto, la fluidità di racconto che aveva molti anni addietro. A mio parere Blue Jasmine ha il difetto di essere un film discontinuo. Nel momento in cui sposta la macchina da presa lontano da Kate Blanchett, ma di sicuro è uno dei migliori film di Woody Allen degli ultimi anni. C'è l'arguzia di Allen nel vedere le contraddizioni della società americana, forse non c'è più quell'acume ironico, c'è sempre più la malinconia dell'ultimo Woody Allen, e quindi a mio parere un film discontinuo ma molto interessante. E allora questo è Blue Jasmine, il ritorno di Woody Allen nei cinema italiani. Adesso viabilità, poi torniamo perché dobbiamo parlare ancora del remake di un capolavoro di Park Chan-wook come Old Boy, firmato Spike Lee. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, Old Boy, una decina d'anni fa, veramente era uno shock sul pubblico dei festival, sul pubblico cinefilo, sul pubblico amante del cinema orientale, coreano in particolare, questa storia di vendetta durata 20 anni, costruita con una crudeltà senza fine, firmata da Park Chan-wook. Era un film che davvero aveva sconvolto l'uditorio e il pubblico. Ebbene, una decina d'anni dopo, il buon Spike Lee, mica uno qualunque, firma un remake americano. Ormai l'instant remake è all'ordine del giorno. Distribuire film orientali sottotitolati eccetera in America è una missione quasi impossibile per il pubblico locale. Allora si preferisce rifarli con firme, voci, volti assolutamente americani, che poi girano il mondo come in questo caso. Con queste premesse non è che io fossi esaltatissimo all'idea di andarlo a vedere. Devo dire che mi sono parzialmente ricreduto. Intanto sentiamo una clip. 20 anni nella stessa stanza, Cristo santo, io sarei diventato pazzo. Perché? Perché qualcuno ti avrebbe fatto una cosa simile? Che motivo ci sarebbe? Tieni. Direi che ti ci vuole. No, va bene il caffè. E cosa vuoi fare, Joe? Pronto. Ciao, Joseph. Com'è andato il tuo primo giorno di libertà? Questo è un incontro chiave nel film. Dopo 20 anni di prigionia, senza sapere dove, come, perché e chi, Joe Doucette viene liberato e torna dal suo vecchio amico. L'avete sentito il dialogo, e proprio lì riceve la telefonata del suo misterioso aguzzino che comincerà a manovrarlo come una pedina. Boris, dicevo, sono entrato con le peggiori aspettative, sono uscito e mi sono guardato con qualche collega, ci siamo detti un po' tutti la stessa cosa, però pensavo peggio. Tu? Beh, anch'io pensavo peggio e mi sono altamente ricreduto, perché Spike Lee fa una cosa molto intelligente quando si affronta un remake di questo tipo, di un film che comunque è diventato famoso, è diventato un cult, ovvero si richiama all'originale, non all'originale di Archon Book, ma direttamente al manga. E si affida a un attore, a mio parere, spesso sottovalutato ma straordinario, come Josh Brolin, e affronta questa storia di vendetta sotto un altro punto di vista, non tanto sotto quello della brutalità estrema che Parchan Book aveva portato in scena 10 anni fa, ma sul passare del tempo, sulla manipolazione del tempo e delle persone, sull'aspetto forse più thriller e meno sconvolgente fisicamente della struttura della storia. E alla fine viene un film di genere molto interessante, che sembra poco Spike Lee da una parte, dall'altra invece è evidente la mano del regista americano, e alla fine secondo me è uno dei migliori film della settimana, quindi sicuramente da promuovere il tentativo di Spike Lee. E allora, Old Boy di Spike Lee nei cinema italiani, film assolutamente da vedere. E allora, grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Allora, ci sono film, tutti i film, che si vedono sul grande schermo, questo è la loro, quella è la loro casa, quello è il loro formato, ma il cinema tante volte entra dentro di noi dalle vie più inattese. E ce lo immaginiamo con la nostra testa, quando sentiamo una notizia, quando leggiamo un libro, ci facciamo il nostro film. Tante volte si dice, ho letto il libro, non voglio vedere il film perché mi cambierebbe l'immaginario. Un film ce lo facciamo anche quando sentiamo una canzone. Chi di noi non ha immaginato la scena raccontata da una canzone? E allora, in questo senso, in questa direzione, va il lavoro che ha fatto un amico, possiamo dire, di questa trasmissione, perché quando sentite dire quella parola lì all'inizio, la rosa purpura di Franco D'Assisti, è quella voce, è la voce di Cristian Jansante, di uno dei più grandi doppiatori italiani di cinema, che insieme a tanti altri doppiatori ha voluto fare un omaggio a un grande poeta della nostra cultura popolare che non c'è più, Valerio Negrini, paroliere storico dei Puss, scomparso all'inizio di gennaio di quest'anno. È un doppio CD inserito in questo Pooh Box appena uscito, che si chiama Voci per Valerio, appunto, dove le canzoni scritte da Valerio Negrini sono diventate dei piccoli film da ascoltare. Ciao. Ciao. Vieni. Grazie. Lei entrò. Sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti. Hai visto? Appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so. Non so, mi disse. Non so come uscirne fuori, non lo so. La guardai ed ebbi un momento di pena, perché sembrava smarrita. E la canzone va avanti, chi di voi la conosce, una canzone memorabile, ci penserò domani, dei Pooh, sa di cosa stiamo parlando, di quale scena, di quale racconto. Cristian Jansante è qui con noi per raccontarci questo straordinario e assolutamente unico, che mi risulti, lavoro fatto sul materiale dei testi di alcune canzoni. Ciao Cristian. Salve. Ciao. Ciao, ciao, ben trovato qui alla Rosa Purpura per una volta, non grazie, solo come voce ma come presenza. Allora, far diventare cinema una canzone, come hai lavorato a questo concetto? Ma non ho pensato che nel momento in cui mi è venuto in mente che fosse una cosa unica e probabilmente mai fatta al mondo, nel senso che se 50 attori importanti avessero recitato, come dico sempre, i Beatles, forse l'avremmo saputo. E, volevo fare questo regalo ai Pooh, che sono miei amici, e io siccome so fare questo, non nient'altro nella vita, allora potevo soltanto prendere delle canzoni e recitarle, nel caso specifico come se fosse un film, perché io, facendo il doppiatore, faccio principalmente i film, le serie, comunque insomma non teatro e non altre cose dove lo stile recitativo magari è un po' diverso. Questo però mi ha costretto ad un lavoro anche di post-produzione notevole, me lo dico da solo, ma insomma ho lavorato molto davvero per mettere, che ne so, qui avete sentito la pioggia, avete sentito i passi, le porte che si aprono, in altre canzoni un po' più epiche tipo Inca, c'è proprio la foresta amazzonica, piuttosto che, non so, altre cose che ricordo, i treni, i gong, no? Che costituiscono quindi una sorta di film sonoro, in questo caso non ci sono le immagini, ma è un vero e proprio film, anche perché supportato dalle grandi voci del cinema. In Ci penserò domani avete sentito due miei colleghi bravissimi, che sono Luca Ward e Giuppi Izzo, le loro voci sono collegabili a facce di attori, ripeto, molto famosi, quindi c'è anche questo equivoco, no, in Italia, quindi penso che qualcuno ascoltando questo brano immaginerà, che ne so, le parole del protagonista di Ci penserò domani dette da Russell Crowe piuttosto che da Pierce Brosnan, oppure da Bradley Cooper, che è appunto il nostro Christian Ansanti, oppure, sì, oppure insomma Pedicini, insomma ci sono veramente il gota dei doppiatori italiani di oggi su questo progetto. Voci per Valerio nel Pooh Box, film da sentire tratti da grandi canzoni. Salutaci Christian dicendoci dal vivo La rosa purpurea, ti prego. Ti devo dire dal vivo, ma come la dico? Male come la dico nella sigla? Sì, dai, più o meno. Va bene, la rifaccio allora. La rosa purpurea. Ecco, questa era una soddisfazione che da 14 anni volevo togliermi e finalmente ce l'abbiamo fatta. Grazie a Christian Ansanti, un abbraccione. Carissimo, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora, Voci per Valerio, che tra l'altro sarà anche l'anima di una serata di omaggio a un anno dalla scomparsa di Valerio Negrini, il 3 gennaio 2014 al Teatro Donizetti di Bergamo, con i Pooh al gran completo e anche con Christian Ansanti, con le sue canzoni diventate cinema con il suo racconto, appunto, che faranno un po' da spina dorsale di questo omaggio che si intitola Ciao Valerio. Noi torniamo al invece cinema giocato, fra virgolette, anzi quello visto in DVD, visto alla televisione, con la seconda traccia del nostro game di oggi. Come si fa a usarla? Oh, molto semplice. Testa alta e guardare sempre avanti. Come nella vita. Che cosa stanno usando? Qual è la domanda? Come si fa a usarla? Che film è? Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla nostra casella email, la rosapurpurea@radio24.it. Provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film, che vi sveleremo ovviamente la prossima settimana. 7 giorni fa invece avevamo giocato così. A che accidenti ti serve un cervello secondario? Insomma, si vende ogni parte del kaiju. Cartilagine, milza, fegato, persino lo sterco. Ma il cervello ha troppa ammoniaca. E allora si trattava di Pacific Rim, uno dei film dell'inizio della stagione che hanno più coinvolto il grande pubblico, lo scontro fra robot buoni e robot cattivi che ci ha fatto venire in mente i tempi in cui eravamo ragazzini e a menarsene di santa ragione erano Jig, Mazinga e Atlas UFO Robot. E allora hanno indovinato per primi e quindi riceveranno a casa la copia in Blu-ray di questo film Gabriella Bisello di Limena, provincia di Padova, e Mona Amadin di Ponsacco, Pisa, e saranno loro a ricevere questo bellissimo Blu-ray Pacific Rim, che ci facciamo raccontare anche nei suoi contenuti speciali dagli amici della redazione di Film TV. Giulio San Giorgio è già in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Pacific Rim, blockbuster con l'anima e la corazza di robot giapponesi diretto da Guillermo del Toro, in un'edizione che si candida a essere quella del miglior DVD dell'anno in Blu-ray. Disco stereoscopico per la versione 3D con solo il film, più un disco con la versione 2D e contenuti extra, come un making of della durata di ben un'ora, e un ulteriore disco di extra con appunti del regista, focus sulla creazione degli effetti speciali, archivio navigabile con materiali di pre-produzione, produzione, post-produzione e sequenze tagliate. Da un punto di vista tecnico, audio e video come raramente si sono visti e sentiti. E allora, per il divertimento che può continuare con un buon impianto home theater anche in casa, andiamo a spulciare invece, Giulio, i palinsesti televisivi della prossima settimana. Abbiamo voluto scegliere un film anomalo, magari non perfettamente riuscito, della filmografia di Carlo Mazzacurati, ma con tanti spunti molto divertenti e una sua, come dire, estetica particolare. Tra l'altro, recentemente a Torino, Mazzacurati ha mostrato il suo nuovo film, e allora stiamo parlando della Lingua del Santo. Sì, La Lingua del Santo su Iris, in prima serata alle 21.05 di domenica. Parliamo di quella che è una delle più originali commedie italiane degli anni zero, storia di due soliti ignoti quarantenni, due ladruncoli che cercano il colpo grosso e in questo caso rubare la teca dove era custodita la lingua di Sant'Antonio. Un film colto e agrodolce, raffinato e ironico nel tratto, che guarda la commedia italiana ma sa parlare anche del suo presente, di un paesaggio umano che è quello del Veneto e di una generazione. Davvero bravissimi i due protagonisti, Albanese e Bentivoglio, in due delle loro migliori interpretazioni. E allora La Lingua del Santo è domenica alle 21.05, quindi in prima serata su Iris Digitale Terrestre. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, prima di concludere, una segnalazione, un consiglio: andate a vedere Model Shop, l'amante perduta, capolavoro di Jacques Demy del 1969 con una grandissima e bellissima Enuka Aimé. Lo programma dall'11 dicembre al 30 dicembre, quindi in programmazione regolare, la Cineteca Italiana di Piazza Oberdan a Milano. Lo spazio Oberdan è davvero un'occasione per vedere in una versione tra l'altro bellissima sul grande schermo questo straordinario film, storia di un amore difficile fra un architetto, appunto, una modella, film americano del grande maestro francese Jacques Demy. E poi vi ricordo la nostra pagina Facebook, la Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità, in settimana siamo diventati più di 2400 e continuiamo sempre a crescere. Appuntamento la prossima settimana, grazie a Isotta Scenna che ci ha aiutato in redazione, a Paolo Corleoni in regia, un saluto da Franco D'Assisti.